Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. È sempre un piacere ospitare al cacciatore di libri Radio 24 Amelino Tom, una scrittrice di culto, una scrittrice belga, lo ricordiamo, che però ha passato molta parte della vita, almeno una parte della vita, è cresciuta in Giappone. Dicevo che è una scrittrice di culto che a me personalmente piace tantissimo. Vi cito solo alcuni dei romanzi che lei ha scritto, giusto per ricordare e rinfrescare alcuni titoli: Igiene dell'assassino, Mercurio, Stupore e tremori, Metafisica dei tubi, Cosmetica del nemico, insomma ce ne sono veramente tanti. Diciamo che è un appuntamento un po' annuale con Amelino Tomb. Ci vediamo ogni volta che lei pubblica un romanzo anche in Italia. L'ultimo si intitola Riccardin dal ciuffo, lo pubblica come sempre in Italia Boland, in questo caso tradotto da Isabella Mattazzi. Amelie, in questo caso tu hai voluto riprendere una favola tipica della tradizione francese che poi era stata messa, diciamo, nero su bianco da Perrault, che è stato autore di tantissime altre fiabe. Perché questa volta hai scelto, un po' come avevi fatto anche con Barba Blu, di riprendere una favola tradizionale, e perché hai scelto proprio questa? J'ai choisi un conte parce que les contes sont terriblement importants pour moi. Ho scelto una favola perché le favole sono molto importanti per la mia formazione. Io sono cresciuta con le favole occidentali e con quelle orientali. Le favole sono il mio scheletro. Ho scelto Riccardin dal ciuffo perché adoro questa favola. È la versione un po' modificata della Bella e la Bestia. Quando nella Bella e la Bestia la principessa alla fine della favola si innamora del mostro, gli dà un bacio e il mostro si trasforma in un bellissimo principe. È orribile tutto questo. La principessa si è innamorata di un mostro. Che se ne faceva di un principe bellissimo? In Riccardin dal ciuffo la favola rispetta il desiderio della principessa. Lei è diventata, si è innamorata di un mostro e lui rimane mostro. De la belle princesse, elle reste avec son monstre alla fin et elle est très heureuse. Quindi è una favola sulla quale si possono fare molte riflessioni sul concetto di bello e brutto e su come oggi noi concepiamo il bello e brutto. Tu a un certo punto scrivi, a proposito di bellezza, da qualche tempo ci raccontano che il senso del brutto è un fattore culturale. È la nostra cultura che ci insegnerebbe a trovare belle o brutte persone, animali o cose. Si confonde l'essenza con il dettaglio. Se in effetti è la cultura che definisce le variazioni del bello in funzione delle epoche e dei luoghi, l'idea di bellezza le è interiore. Secondo te, allora, la cultura conta solo in parte nell'idea che ognuno di noi si fa del bello e del brutto? Oui, la culture ne se soucie que du détail de la beauté que de la mode. Sì, la cultura non si occupa che del dettaglio e il senso del bello è insito nella persona, è quello che fa in modo che un bambino si metta a piangere se viene messo nelle braccia di una vecchia strega, di una persona orribile, e invece sorrida contento se è fra le braccia di una bella persona. E è heureux quand on le met dans les bras d'une belle femme. Parliamo nel dettaglio dei personaggi di questo romanzo, l'abbiamo visto, e insomma è ispirato fortemente ad una storia che inizialmente si intitolava Enrichetto dal ciuffo. C'è questo bambino bruttissimo, veramente brutto, che si chiama Deodato. Appena nasce i genitori sono stupiti da quanto veramente sia brutto. Anche sua madre fa fatica, non dico ad amarlo, ma insomma quasi ad accettarlo. Tant'è vero che i primi anni della sua vita viene tenuto nascosto dalla società. Poi inizierà a essere visto solo quando andrà alla scuola elementare. Però è un bambino di un'intelligenza straordinaria. Tu ci descrivi tutte le sue riflessioni su quando vede muovere, diciamo, sulla sua scena il padre e la madre. Si ha come la sensazione che Deodato sia superiore a loro, sia più furbo, sia più intelligente, sia più scaltro. È come se li prendesse un po' in giro. È così.

e con un principio simile come si potrebbe non venerare la bellezza? Molto più tardi io ho scoperto la posizione occidentale della bellezza, quella platonica, ma Platone in qualche modo, associando la bellezza all'anima, potrebbe essere considerato un intermediario rispetto al Giappone e l'Occidente, diciamo. Ma il dernier, par contre, la décadence totale, c'est la religion chrétienne. La religion chrétienne, c'est exactement le contraire. Il punto estremo è stato toccato dalla religione cristiana, dove il brutto è il concetto vincente, dove solo il brutto ha diritto a essere considerato in qualche modo come umile, e quindi la religione cristiana per me è stata la scoperta ultima di questa linea. Io ho cercato di diventare grande in mezzo a questi concetti fra il Giappone, dove sono nata e ho vissuto i primi anni, i miei genitori che sono belgi e cattolici, e peraltro anche rendendomi conto delle contraddizioni del cattolicesimo, perché pur elevando la bruttezza al massimo grado si continua a rappresentare il Cristo e la Vergine come bellissimi. Quindi come muoversi in mezzo a queste contraddizioni? Tout pur et tout joli, alors comment comprendre? Un'ultima domanda. Negli ultimi tempi molti grandi scrittori, penso per esempio anche all'americano Michael Cunningham, hanno riscritto favole tradizionali trasformandole in favole nere, insomma favole diverse con un finale diverso. Tu ti sei attenuta molto, insomma, alla struttura della favola. Generalmente le favole hanno sempre una morale, un significato. Ma anche tu hai voluto dare un significato, un messaggio a questo libro, o è semplicemente un romanzo da leggere e poi ognuno ci prende il significato che vuole? On fait comme on veut, même dans le conte de Perrault, Riquet à la Houppe. Ognuno fa come vuole, ma anche nelle favole di Perrault succede la stessa cosa. In realtà lui sembra a un certo punto dare una determinata morale, ma subito dopo ne dà un'altra, e dunque è come se lui dicesse: tiratene fuori quello che volete, o anche non tiratene fuori nessuna morale se volete, leggetelo per puro piacere. Vous pouvez tout aussi bien trouver un message tout à fait différent, autrement dit, ça veut dire exactement ce que vous voulez. Grazie ad Amelino Tombo, ora in libreria con Riccardin dal Ciuffo, pubblicato da Voland, tradotto da Isabella Mattazzi. Grazie anche a Daniela Di Sora, l'editrice appunto Voland, che gentilmente ci ha tradotto questa intervista. È una favola, l'abbiamo detto, è una favola sul bello e sul brutto, sempre con i toni alla Amelino Tombo. C'è un po' di grottesco, un po' di surreale, c'è soprattutto un ribaltamento dei piani, perché poi alla fine ciò che è bello può essere brutto e viceversa. Grazie Amelino Tombo. Grazie tante. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Faircam Air & Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta. Cerchiamo l'Europa delle opportunità. Più viaggio, più incontro persone della mia età che capiscono il mondo come il nostro mondo. Non è il mio paese, è la nostra Europa. Cerchiamo l'Europa dei valori. Io sono pro-europeo, sono uno che adora l'Europa. È una parte del mondo che mi affascina. Cerchiamo l'Europa dell'innovazione. C'è bisogno di informare e come possiamo aiutare i cittadini, i giovani, i ragazzi a capire che cosa è l'Unione Europea e cosa gli può offrire. Sono Federico Taddia e vi aspetto ogni sabato alle 12 all'Altra Europa per andare insieme a cercare e a scoprire l'Europa delle persone, delle storie e delle possibilità. L'Europa c'è, facciamola nostra. In collaborazione con Euronet Plus, il cacciatore di libri. Un romanzo che parla di adolescenza, che parla di due ragazzine, Vanessa ed Erika, che parla della loro amicizia, amicizia come spesso accade durante l'adolescenza, proprio assoluta, amicizia che quasi diventa amore. Queste due ragazzine sono inseparabili e sono anche unite da un stesso desiderio, da un'unica volontà, quello di diventare leggere come libellule. Ma non parliamo di anoressia. Il romanzo si intitola Ellissi, l'ha scritto Francesca Scotti, pubblicato da Bompiani.

perché hanno preso queste due ragazzine il modello di una libellula? Allora, l'idea era quella di raccontare anche questo discorso alimentare e della, comunque della, dell'incontro scontro col problema della, del nutrirsi, utilizzando, andando un po' al di fuori degli stereotipi. Ora, non è che non ho scelto la farfalla, ho scelto la libellula perché è al di fuori dello stereotipo, ma perché in questo caso il loro desiderio di abbandonare il corpo umano per come lo conosciamo, ad aspirare a qualcosa di così perfetto e diverso, e soprattutto con delle caratteristiche di vitalità, di ferocia, per esempio per la cultura giapponese, che è una delle culture che, diciamo, che accompagna. Tu vivi in Giappone, sei italiana ma vivi in Giappone a Nagoya, quindi conosci bene, esatto, la cultura giapponese. Per esempio il simbolo della libellula, che in giapponese il significato del termine libellula è l'insetto che non arretra, cioè l'animale che non va mai indietro ma va sempre avanti, viene utilizzato per decorare tutta una serie di arte legata all'attività militare. Quindi è un insetto combattente, un insetto al quale viene data sì la leggerezza e la purezza, ma anche la ferocia. La ferocia, e poi c'è una parte nel romanzo dove tu parli proprio di una trasformazione lenta in cui, esatto, la libellula deve stare ferma e aspettare. Esatto, quindi un'evoluzione costante, ma anche con questa capacità di attendere addirittura il momento in cui, per esempio, le ali diventano, si induriscono dopo che si è aperto l'esoscheletro e possono volare, devono aspettare anche in quel momento. E quindi, se da un lato c'è una ferocia e una capacità di essere predatori, c'è anche poi invece una pericolosità, perché in tutta questa attesa è un insetto estremamente vulnerabile che nasce nell'acqua e vive nell'aria. E poi vive nell'aria, quindi... Al netto di questa onnipotenza c'è in realtà una grande fragilità. La fragilità emerge, la fragilità di queste ragazzine, la fragilità interiore che è tipica appunto anche di quella età. E c'è un'altra cosa che mi ha colpito. Spesso nei tuoi romanzi, ricordo per esempio Il cuore inesperto, giusto per citarne uno, c'è sempre un personaggio che ha un rapporto conflittuale con il cibo, o meglio, più che con il cibo, con l'idea del controllo del cibo e di quello che mettiamo dentro il nostro corpo. Perché questo tema ti è così caro? Ma io credo in questo di essere anche abbastanza figlia della mia generazione, nel senso che io ho vissuto quest'epoca a tutti gli effetti in cui al cibo viene chiesto sempre qualcos'altro, viene chiesto di essere spettacolare, viene chiesto di essere curativo, di essere anche in qualche modo terapeutico ma migliorativo. Cioè, la manna dal cielo. Esatto, insomma. Un cibo che è sempre qualcosa di più. E non un cibo invece semplicemente del desiderio. E quindi credo che questo mio focalizzarmi anche sul linguaggio del cibo sia anche un tentativo di parlare e raccontare le storie attraverso uno strumento che è quello poi in realtà di tanti, di tutti, cioè utilizzare qualcosa di estremamente da un lato primario e primitivo come il linguaggio del cibo e dall'altro estremamente mediatizzato come in questo momento in effetti è, quindi cercare di utilizzare qualcosa che mi servisse anche per attraversare il più possibile il linguaggio contemporaneo. Erika e Vanessa, nel momento in cui si trovano appunto in questa clinica per i disturbi alimentari, costituiscono un tutt'uno, cioè sono loro due non contro gli altri, ma insomma separate dagli altri. Vediamo i personaggi, vediamo anche i genitori, il padre di Erika, così come i genitori di Vanessa, che compaiono in questo romanzo, e ci sono anche altre persone che interagiscono con loro in clinica, però loro non si fanno scalfire. No, loro, esatto, sono un universo a parte ed è proprio dell'adolescenza quello di sentirsi onnipotenti e di costituire un organismo, anche se appunto sia in due, a parte. Ed infatti sarà la messa in discussione di questo essere due, quindi la capacità di ciascuna di ritrovare delle proprie risorse per relazionarsi col mondo esterno, che metterà in discussione tutto il sistema, che in realtà fa parte appunto della crescita. Diciamo che una delle due cercherà di sottrarsi a questo progetto, a un certo punto non condividerà più con l'altra il progetto di diventare una libellula leggera come una libellula. Esatto, del primo grande tradimento, quello dell'amica, in realtà, che al di là del sentimento non è che si trova al primo ragazzo, ma rifiuta il progetto iniziale, quindi voleva anche essere in qualche modo una prima piccola storia d'amore con i suoi lutti e con i suoi dolori, perché questo è a volte quando basta l'amica che ti dica che non viene più in vacanza con te ed è già un primo tradimento. A proposito di storia d'amore, tu facevi prima un accenno, a un certo punto compare un ragazzo, Diego, che avrà una relazione con una delle due. È abbastanza insolito vedere, diciamo, un ragazzo, quindi un maschio, che ha disturbi di controllo del cibo. In realtà ci stupisce così apparentemente, ma sappiamo che sono disturbi anche diffusi fra i maschi. Ma c'è fra il maschio e le femmine un modo diverso di percepire il controllo del cibo, almeno nei tuoi personaggi, perché ovviamente ti sarai documentata per scrivere alcune parti di questo romanzo? Io credo che il dato biologico sia innanzitutto il primo dato interessante sull'effetto che il rifiuto del cibo ha su un corpo femminile e su un corpo maschile. Se il rifiuto del cibo sul corpo femminile mette in discussione tutta la capacità procreativa, la capacità di essere donna, cioè la femminilità, nel maschio questo è diverso, è più sfumato, arriva dopo, è più un dato veramente di cicatrice che uno porta sul corpo, ma è meno, tra virgolette, appunto invalidante dal punto di vista, come dire, atavico, primitivo. Per contro, in realtà, è una risposta che molti adolescenti maschi cominciano a dare al disagio. Una risposta che io mi sono data è che probabilmente il fatto che anche il maschio comincia ad essere oggetto di interesse mediatico dal punto di vista del corpo o anche del genere, della caratterizzazione, forse lo ha reso più vulnerabile, o forse davvero le differenze di genere in quell'età sono talmente ancora magari da formarsi che la risposta è uguale, è simile. Grazie a Francesca Scotti, ora in libreria con Ellissi, pubblicato da Bompiani. L'abbiamo detto, è un romanzo che parla di adolescenza, di una storia veramente d'amore, di grandissima amicizia fra due ragazzine unite dal desiderio di diventare leggere come libellule, perché appunto il corpo in quell'età è il palcoscenico, insomma, della vita, il modo in cui gli adolescenti si esprimono, quindi non è un romanzo sull'anoressia, ci teniamo a precisarlo. Grazie Francesca. Grazie a voi, grazie a te. E prima di chiudere vi segnalo un'interessante iniziativa del Circolo dei Lettori di Torino, che dedica 4 incontri ad altrettanti scrittori di lingua spagnola. L'iniziativa si chiama, la manifestazione si chiama Hispanica. Gli incontri si terranno uno il 7 marzo, poi l'11 e il 20 aprile e poi il 4 maggio. Gli scrittori che interverranno: Alicia Jiménez Bartlett, la famosissima giallista spagnola chiamata un po' la Camilleri della Spagna, appunto. Poi Julio Llamazares, Javier Cercas, famosissimo scrittore spagnolo, insomma l'autore di L'impostore, e infine ci sarà anche Almudena Grandes, che è diventata famosa dopo il romanzo L'età di Lulu, che era diventato appunto un film, e anche dopo aver scritto Malena, anche in questo caso diventato un film. Il suo romanzo più recente è I baci sul pane, risale al 2015. Tutte le informazioni su questa manifestazione ispanica, gli incontri con questi autori di lingua spagnola, su circololettori.it. Anche per oggi è tutto, grazie in regia ad Andrea Roccabella e Filippo Auregi. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.